big chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I stick chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. What a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stop, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stick it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta stick it. See, it's a neat trick. But see what I make me tick. Mama, yeah. Clickety click, I'll stick it. Yeah, don't you know she's a stick? Mama, yeah, click it, click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah, yeah. I gotta play the little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Ben ritrovati, ben ritrovate a Slick Chick su Radio Wombat. Oggi siamo a giugno, che giorno è che non mi ricordo, 7 giugno 2016 per chi ci ascolta in diretta, sono le 21.03, abbiamo cominciato puntualissimi quest'oggi, incredibilmente, per chi ci ascolta non in diretta ma in podcast, vabbè, guardate l'orologio e il calendario. E oggi puntata un po' particolare sia per me che vi parlo che per molti di voi che ci staranno, penso, forse, chissà, ascoltando, perché siamo a Firenze un po' tutti devastati e sconvolti dalla notizia della morte di Lorenzo domenica 4 giugno. E la radio ha subito un bel po' di scossoni, come era naturale che fosse, la trasmissione La fuga del gatto, che doveva andare in onda domenica pomeriggio, ovviamente non è andata in onda, e molte altre hanno subito interruzioni e non sono state fatte. Lo stesso succederà domani, visto che domani, giovedì 8, ci sarà un corteo per dare l'addio a Lorenzo, appunto, che partirà da Piazza San Marco alle 5, che attraverserà un po' il centro storico di Firenze e il quartiere a lui più caro probabilmente, ovvero quello di Santa Croce. Saremo tutti là, ovviamente, ci sarà, penso, tutta la città e anche mezza Italia, e quindi ovviamente non staremo in radio, quindi le trasmissioni di domani, sia La Brusca che 8 Hertz, non ci saranno, ci sembra abbastanza ovvio. E, detto ciò, Slick Chick oggi c'è per fare un piccolo omaggio a Lorenzo. La puntata di oggi è dedicata interamente a lui e boh, mi sembrava il modo più ovvio e più magari anche banale, ma più di cuore, per ricordarlo era quello di dedicargli una puntata che parli interamente dei Riot. Riot in varie accezioni, in varie forme, di vario tipo, che poi sarebbe un argomento veramente immenso che forse meriterebbe più di una puntata, ma intanto facciamo questa, un po' con la morte nel cuore, ma un po' anche no. E i primi due pezzi sono due pezzi che secondo me parlano, direi, abbastanza letteralmente probabilmente anche della vita di Lorenzo, non solo di lui ma anche di lui, e quindi boh, sentiteveli. Bye. this world is coming to. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Bum rush the sound I made a year ago. I guess you know, you guess I'm just a radical. Not on sabbatical, yes, to make it critical. The only part of your body should be part of it too. Pair the power on the hour from the rebel to you. Hey, yo, Chuck, man, I don't understand this, man. Yo, you got this mother out, man, you're losing them. Radio, suckers never play me. All the mix, they just okay me now. Knowing and growing, when the clock in my zone is known, sneaking and taking everything now the brother owns. Hard. My calling card, recorded and ordered. Supporter of Chess and Mart, loud and proud. Kicking live, next poet supreme. Loop for truth, bazooka for scheme. Flavor, a rebel in his own mind. Supporter of my rhyme, designed to scatter a line of suckers who claim I do crime. They on my time, dig it. Hey, yo, Chuck, I think we taking shots. Show this is Cole Medina, man, come on, kick it. Terminator X. Disable the power of my label. Def Jam tells you who I am. The enemy's public, they really give a damn. Strong Island, where I got a riling. That's the reason they're claiming that I'm violent. Never silent, no dope, getting dumb, nope. Claiming where we get our rhythm from. Number one, we hit you and we give you some. No gun, it's still never on the run. You wanna be an S1, group will tell you when. And then you come again, you know what time it is. MP's the president, pulling out my ray gun. Zap the next one, I can be your shogun. Suckers, don't last a minute. Soft and smooth, I ain't with it. Hardcore, raw bone like a razor. I'm like a laser, I just won't phase ya. Old enough to raise ya, so this will phase ya. Get it right, boy, maybe I will praise ya. Playing the role I got sold to. Voice my opinion with volume. Smooth, not what I am. Rock, cause I'm a man. No matter what the name, we're all the same. Pieces in one big chess game. Yeah. The force of power is in a house. Go take a shower, boy. P-E-R crew, a crew, not singular. We wear black wranglers, we're rap stranglers. You can't angle us, I know you're listening. I caught you pissing your pants. You're scared of dissing us, the crowd is missing us. We're on a mission, y'all. Yo, Chuck, yo, yeah, man. Yo, you got them running scared, man. Terminator X. Yo, yo. Questi erano ovviamente i Public Enemy con Rebel Without a Pause, e prima ancora ci siamo ascoltati Clash con Police on My Back. Sì, entrambe direi che dicevano un po' tutto, e sicuramente Lorenzo la pausa non la faceva mai, diciamo, ecco. Ma Riot, parliamo di Riot, in particolare iniziamo da uno dei più famosi, o perlomeno quelli passati alla storia negli ultimi decenni, ovvero i Riot di Los Angeles del 92. La scusa ce la dà Thurs, un rapper americano, statunitense, con il pezzo Rodney King. Thurs, appunto, questo rapper, diciamo un po' a metà tra lo stile più gangsta e quello invece più politico. Nel 20° anniversario del pestaggio di Rodney King, decide di dedicare un intero album ai Riot di Los Angeles del 92, appunto. Thurs è un rapper, come dicevo, della nuova generazione. In realtà, appunto, sta un po' a metà, nel senso che non è politico come lo possiamo intendere noi, ma di certo ha dichiaratamente disconosciuto lo stile gangsta, sebbene non disdegni i soldi e MTV, che insomma non gli fanno niente affatto schifo. In ogni caso, per raccontare Riot di Los Angeles mi sono sentita di preferire lui piuttosto che Dr. Dre, che pure li racconta benissimo, ma che dall'alto dei suoi miliardi potrebbe pure starsene zitto. Sicuramente non lo facciamo parlare dai microfoni del Wombat. Ma tornando ai Riot e lasciando per un attimo indietro l'hip hop, il 3 marzo del 1991 Rodney King, un tassista afroamericano, insieme a due passeggeri, è inseguito in macchina dalla polizia. La storia la saprete, ve la riassumo proprio così, un po' brutalmente. Dopo un inseguimento di diverse ore viene preso e arrestato in strada, e Rodney King, che era disarmato, si consegna ridendo e salutando con la mano l'elicottero sopra di lui. I poliziotti iniziano un feroce pestaggio, una roba abbastanza usuale a Los Angeles, ma come ben sappiamo non soltanto lì, e solo che il tutto viene filmato per caso da un vicino, che manda tutto quanto alla televisione. La cosa fa un po' il giro degli Stati Uniti e non solo, vengono incriminati quattro poliziotti e inizia un processo. Il 29 aprile del 1992 arriva la sentenza e i poliziotti, sorpresa sorpresa, vengono tutti prosciolti. E come dice però il saggissimo proverbio "chi semina vento raccoglie tempesta", la notizia della sentenza inizia a Los Angeles quella che è passata poi alla storia come una rivolta, ma che dovremmo secondo me in realtà riconoscere come una vera e propria guerra civile. E in appena 6 giorni succede un po' di tutto. I numeri ufficiali da soli danno un'idea, ve li butto lì: più di 10.000 uomini della Guardia Nazionale impiegati, più di 3.500 soldati e Marines, almeno 53 morti, almeno 2.383 feriti, più di 16.000 denunce di reati legati ai Riot, 12.111 arresti, 7.000 incendi e una cifra stimata un po' ipotetica, un po' così, ma plausibile soprattutto guardandola a parecchio al ribasso, almeno 36.000 pallottole sparate. Se vi interessa saperne di più, soprattutto leggerne di più, c'è questo libro veramente intenso che io ho divorato negli ultimi mesi, che si intitola All Involved, l'edizione italiana uscita per Guanda, si intitola Giorni di Fuoco di Ryan Gatiss. Ve lo consiglio veramente tanto perché è molto esaustivo e offre una panoramica approfondita su quello che sono stati quei incredibili giorni. Yes. man, this game's a boss killer. Who would have thought the Bulls are falling? Indiana Miller, Jordan scoring 22 and Reggie dropping 40. And I'm betting 200, thought the money was in the bag to win surely. The homie took the glory as I took another shot of the Henny pass to Freddie. B.A. had the weed rolled as we left the spot. Top notch crop popping, a Honda Excel, the four-door manual lock. Mary Jane, we blow, wind as we roll. Intoxicated, blasting tunes out the radio. 80 on the freeway, not thinking about parole. Roll, titty C.A.P. smashed out the cut. They start to follow through on the blue boy lights. But my mind like, fuck jail tonight. No D.U.I. for I, I'm mashing out of sight. Out the window goes the green. Increased speeds, I'm at 117. I'm over the alcohol limit at .19. I'm in violation, but a black man in 1991 is better off racial. I'm Rodney King. And exit the 210 like Mad Men. They bring the workout for dark skins. I'm all in. Chances thin for the win. I'm driving all directions. Rush like linemen. They got the helicopters out. An option is back and out. 75 in the residential lab where no pencil is drawn out. Flat out of luck. Do I tap out? LAPD, word of mouth, got me ashed out. They order us out the car. The two homies step out. But I feel like I came too far to be another nigga back behind bars. With my back against the wall, immersed talking shit like fuck it. This probably my last day as a free man. This is it. I'm laughing, waving at forgetting a bird. I flip it, grab my ass and tell these pigs to kiss it. A lady cop bitch points like I'm on word. You think every nigga got a gun, huh? Freeze! You're gonna end up in a way. The pigs try to swarm on me. They say I physically resist. I'm trying to stand my ground. I'm just a one man army. Not swinging, but I toss two off my back. The officers regroup and start to fall back. They bring the taser out, fire into my back. They think I'm on PCP and I ain't even attacked. Fall to my knees, then stand to a death trap. They tase me again. Am I a threat or cause I'm black? It was a good day until I hit the highway. In my rearview mirror, I see the donut chariot of hate. With no time to contemplate a plan of escape, I follow my heart rate and choose to flee as fast as my vehicle can accelerate. Now the one car is three, all filled with overseeing beasts. Famished with an appetite of humiliation, degradation, fiending to beat me to the days of segregation. Out of the car, onto the pavement, boots to the face went in and out of focus. Trying to beat my black blue, but I will never be you. Pigs, you, boys in blue supposed to serve and protect. Well, today you served me an ass whooping and tried to break my neck. I'm falling on my hands and knees, trying to leave home. Hitting the head with the baton, I'm knocked to the ground. They want to keep me down, I hear one officer say, that's enough man. I rise to my knees and receive more blows. Total of 56 with 6 kicks. Handcuffed and dragged on my stomach on some slave shit. I'm reminded of the slave ship. Thanks to George Hollander, you would never hear shit. If my blackness sparked a worldwide movement, would it be considered a revolution? If I put my movement through a beat, would you forget what the movement after the industry dumbs it down? When I serve revolutionary rhythms to the public, would that same public turn around and make me its enemy? Would you blackball my progressively thought-provoking entertainment, shamelessly pigeonholing my creativity into a Great Depression? Well, beware. This stormy Black Monday will morph its way into a black plague of agony. Broken glass, burning buildings, coughing up black smoke. My pen will be a Molotov cocktail of hope for all those who sit silent, listening, contemplating violence, awaiting their turn to play their part in the uprising. Recall, Rodney King, riots. Ooh, yeah. Police and Thieves di Junior Marvin, un classico che molti ricorderanno nella versione di Clash. E proseguiamo con un Riot di altro tipo, questa volta un po' diverso, un po' più un po' meno di strada, un po' più cerebrali, perché si tratta di Riot generazionali, un po' esistenziali e spesso direi non meno laceranti di quegli altri vissuti in strada. Parliamo dei Sonic Youth con Teenage Riot dall'album Daydream Nation del 1988. Ci sono delle teorie, fra l'altro, sul fatto che in questo pezzo in realtà si inneggia a Jay Maskis, che è il cantante dei Dinosaur Junior, come presidente, cioè che in realtà sto pezzo parli di un mondo immaginario, fantasioso, dove tutto è molto più bello perché gli adolescenti hanno il potere e Jay Maskis, appunto, è presidente. In ogni caso, i Sonic Youth abbracciano e rappresentano un po' il caos dissonante di quella generazione che viveva l'adolescenza negli Stati Uniti di Reagan, Stati Uniti reaganiani, nei tardi anni Ottanta, quindi anni acidi, storditi, direi, che esigevano, mi verrebbe da dire, un riot esistenziale lungo una vita intera. Back on the road. keep slicking on my feet. Soon we could be completely in command. Imagine the sensation, teenage occupation. At 13, I'll be learning. And at 14, I'll be riding. But there's something in the air of which we all will be aware. Questi erano invece gli Sweet, i Sweet con Teenage Rampage, un pezzo del 1974, beh, diversi anni prima dei Sonic Youth e della loro rivolta generazionale, ma direi che anche gli Sweet e il glam in quell'epoca gliene davano sotto parecchio con le rivolte generazionali e non solo. Andando avanti invece andiamo un po' andiamo un po' indietro, perché come data del pezzo sì, siamo oltre, perché siamo nel 1997, ma gli anni di cui vi stiamo per parlare invece sono parecchio prima, perché si parla degli anni 40. Il disco di cui parlo adesso è l'album Zoot Suit Riot del 1997, con il pezzo omonimo Zoot Suit Riot dei Cherry Poppin' Daddies. L'album in questione è una raccolta di quattro album dei Cherry Poppin' Daddies, che esce in quel momento di revival swing che ci fu alla fine degli anni 90. Revival più che altro negli Stati Uniti, ma non solo, insomma, con band come Big Bad Voodoo Daddy e diversi altri. I Cherry Poppin' Daddies erano nella scena ska punk della West Coast in realtà, ma avevano un suono swing perfetto per il momento ed ebbero quindi un inaspettato enorme successo. Penso che loro assolutamente non si aspettassero tutto ciò. Il pezzo in questione parla degli Zoot Suit Riots, appunto, letteralmente, ovvero quei tumulti anti-messicani avvenuti a Los Angeles, sempre, durante la Seconda Guerra Mondiale. Partono da Los Angeles, poi in realtà vedremo, si estendono un po' in altre città degli Stati Uniti, ma essenzialmente il fulcro è stato a Los Angeles. Lo suit suit era quel vestito largo, tipico di quegli anni nella scena musicale afroamericana, messicana e in generale, diciamo, non bianca. Beh, non so se avete presente quella giacca lunga con i pantaloni larghi, un po' svasati, e il cappello a tesa larga, magari con una sottile piuma sopra, tanto per capirsi. Tra l'altro, personaggi vestiti così, tra musicisti, eccetera, ne compaiono un sacco in Tom e Jerry, con un'accezione spesso anche razzista. Meravigliosa, d'altra parte tipica di quel fantastico cartone. In quegli anni questa moda era molto osteggiata, tra l'altro poi pure Malcolm X ne parlò male, ma vabbè, ed era stato vietato l'uso dello suit suite per tutta la durata della guerra, con la scusa, attenzione, che usava troppa stoffa, cioè necessitava troppa stoffa. Il razzismo verso i messicani ha radici antiche, vabbè, lo sapete meglio di me, sarebbe lungo parlarne approfonditamente, ma risalendo almeno a 10 anni prima, durante la Grande Depressione, vennero deportate tra i 500.000 e i 2 milioni di ispanoamericani in Messico, con la scusa del abbiamo poche risorse e ce le vogliamo tenere per noi, un progetto che sarebbe piaciuto a Salvini e gente del suo calibro. A quel punto la maggior parte dei messicani, circa 3 milioni, risiedeva a Los Angeles. Inizia quindi la solita segregazione, che anche gli afroamericani conoscono bene, non solo loro. La stampa fa il solito lavoro da avvoltoi e il razzismo dilaga. Nonostante lo suit suite fosse vietato, appunto, come dicevamo, i chicani si rifiutarono di smettere di indossarlo e diventarono così il chiaro simbolo di quelli che venivano considerati i fannulloni, diciamo così, che non contribuivano allo sforzo bellico nazionale. Divennero un po' un facile capro espiatorio, dinamica abbastanza banale e ovvia, purtroppo. Nell'estate del 43 inizia un'escalation di provocazioni verso i chicani, che chiamo così perché poi aveva inizialmente un'accezione di insulto, poi come spesso succede ne è stato fatto un vanto e anzi i movimenti di liberazione e di orgoglio hanno parlato di orgoglio cicano, quindi insomma penso si possa usare questa parola. Appunto inizia nel 43 questa escalation che esplode in una giornata di delirio sostanzialmente, dove militari bianchi in licenza sostanzialmente scortati dalla polizia entrano nei quartieri latini, devastano tutto e essenzialmente pestano i chicani. Si potrebbe chiamare pogrom, secondo me sarebbe un nome appropriato se non fosse che la nostra santa coscienza bianca ce lo impedisce. It's two cities and they're only pipes and chains and swinging hands. Who's your daddy? Yes, I am. Bad cat came to play. Now you can't run fast enough. You best stay away when the pushers come to shove. Suit, suit, Ryan. Throw back a bottle of beer. Jitterbugging brown-eyed man, stray cat frontin' out an AP's band. Cut me a savvy and you'll understand. In my veins hot music ran. You got me in a sway and I want to swing you down. Now you say there's no where your women come for love. Suits and Ryan, throw back a bottle of beer. Desmond Dekker con Sabotage, l'album This is Desmond Dekker del 1969, buffo se notavate in modo tipicamente giamaicano che invertiva le vocali, Sabotage diventa, o Sabotage diventa Sabotage. È buffo perché pure in Verlaine e in Argot succede qualcosa di simile, sarebbe da chiedere alla Brusca di investigare su questa cosa. Ma proseguiamo, intanto vi ricordo i nostri contatti che ancora non li avevo detti, presi dall'emozione della puntata: Social Wombat, appunto, wombat.noblogs.org, il nostro sito di riferimento e Bibbia dove imparare e ricordare tutto quello che c'è da sapere sul Wombat, la pagina Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook, sempre un po' di difficoltà a dirla, chissà come mai, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la casella di posta, postawombat@insiberia.net. Detti contatti, andiamo oltre e ritorniamo sui Clash. Sì, lo so, ve l'ho fatti già sentire all'inizio, ma è così, stasera va così e ve li beccate due volte. Però questa è una versione un po' strana di un pezzo, beh, ovvio e famosissimo, parlando di Riot. Beh, ci sarebbe anche stato Guns of Brixton, ok, ce ne sarebbe stati altri mille, ma io ho scelto White Riot in maniera forse un po' ovvia. Ma la versione che vi faccio ascoltare, sebbene ce ne sono anche 2 miliardi di cover, anche belle, è invece fatta proprio dai Clash, ma è una versione acustica di un bootleg che si chiama Acoustic Days, che raccoglie diverse canzoni dei Clash rifatte in versione acustica durante un live. Non mi ricordo più dove, ed ecco, io forse se potessi avere la macchina del tempo di Welsh, di H.G. Welsh, andrei a questo concerto che deve essere stato incredibilmente bello, e ok, farei anche un sacco di altre cose se avessi la macchina del tempo, però anche questo, e secondo me quando lo ascoltate capite perché si sente un po' male, vi avverto, d'altronde è una cassetta, quel che è, ma ne vale la pena. Bye. Riot Squad dei Coxpurrer, l'album era Shock Troops, come molti di voi si ricorderanno. Proseguiamo velocemente perché c'è ancora un po' di cose da ascoltarci. Beh, tantissime altre ce ne sarebbero, ve ne faccio sentire solo un po', una piccola parte, e andiamo avanti con un altro classico che non potevo non includere, ovvero Gil Scott-Aaron con The Revolution Will Not Be Televised. L'album è Whitey on the Moon del 1970. Il testo intero è molto più lungo, ma io non ho tempo, quindi accontentatevi di qualche stralcio. Non potrai startene a casa, fratello, non potrai né collegarti e citarti o squagliartela, non potrai perdere tempo a farti pere o fare un salto, a farti una birretta quando arriva la pubblicità, perché la rivoluzione non sarà teletrasmessa. La rivoluzione non renderà sexy la tua bocca, la rivoluzione non ti libererà dai difetti, la rivoluzione non ti farà sembrare 5 kg più magro, perché la rivoluzione non la trasmetteranno in TV, fratello. Non ci saranno immagini tue del campione di baseball Willie Mays che spingete il carrello per strada a raccogliere le anime dei morti, o che cercate di fregarvi quella TV a colori caricandola su un'ambulanza rubata. La NBC non sarà in grado di fare previsioni alle 8:32 o a trasmettere servizi dai 29 distretti. La rivoluzione non la teletrasmetteranno. I telefilm Green Acres, The Beverly Hillbillies e Hooterville Junction non saranno più tanto dannatamente rilevanti, e alle donne non importerà se alla fine Dick seduce Jane nella telenovela Search for Tomorrow, perché i neri saranno nelle strade a cercare un futuro migliore. La rivoluzione non la faranno vedere in televisione, la rivoluzione non ritorna dopo una breve interruzione per la pubblicità del tornado bianco, del lampo bianco, della gente bianca. Non dovrete stare a preoccuparvi per colombe nella camera da letto, tigri nel motore o giganti nella tazza. La rivoluzione non va meglio con la Coca-Cola. La rivoluzione non combatte i germi che provocano l'alito cattivo. La rivoluzione vi metterà al posto di guida. La rivoluzione non sarà una replica, fratelli. La rivoluzione sarà in diretta. Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mays pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke, The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. E sì, the revolution will be not televised, o come dicono in alcuni ultimamente, will not be googleized. E, proseguiamo, e prima di continuare nella nostra scaletta dedicata ai Riot e a Lorenzo, in realtà vi leggo un po' di appuntamenti dei prossimi giorni, in particolare oltre a ricordarvi ovviamente quello che ho detto all'inizio, ovvero domani il corteo che partirà, domani giovedì 8 giugno, il corteo che partirà da Piazza San Marco, attraverserà il centro storico e Santa Croce per dare l'addio a Lorenzo Bargellini. In realtà beh, è un po' inutile che ve lo ricordo, perché penso che tutta la città lo sa e ci ritroveremo domani tutti in piazza. Ma ci sono altri appuntamenti non tanto più nascosti, ma un po' sì. Ad esempio, sabato 10 giugno, concerto Rock contro gli Ecomostri, concerto contro gli inceneritori, l'aeroporto, l'allargamento della pista dell'aeroporto, e sì, e tutte le nocività a noi ben note della Piana. È un concerto che si terrà a partire dalle 18:30 al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, in Via delle Idee. In particolare, tra le varie cose che ci saranno, oltre ai concerti, stand gastronomici, mercato, artisti di strada, stand informativi dei vari comitati della Piana, divertimento per grandi e piccini dal pomeriggio fino a tarda notte. E gli artisti che si alterneranno sul palco sono, come di consueto per i concerti organizzati dalle Mamme No Inceneritore, sono dei nomi abbastanza conosciuti, ovvero Diaframma, Fantasia Pura Italiana, I Matti delle Giuncaie, Etruschi from Lakota, Quarto Podere, Tolomei's Brothers, The Etrurians, Ivan Osca, Alessandro Lanzoni, con la partecipazione anche di Bobo Rondelli. Questo si appunto terrà a partire dalle 18:30, vi ricordo, sabato 10 giugno al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. E invece, sempre lo stesso giorno, sabato 10 al Next Emerson, l'ultimo concerto della stagione del collettivo Nuovi Rumori, che dalle 22:30 all'incirca salutano l'inizio dell'estate, la fine stagione concertistica, con Taste the Floor, Roma Festcore, Six Feet Tall, da Perugia, Post-Hardcore, i Belzebeat, Green Da Billy, da Padova, Saf, Old School Hardcore, da Firenze, gli Ex Goom, per chi li conosce, i Cora, Post-Hardcore, da Firenze. E invece, visto che, come vi posso preannunciare, ma avevo intenzione anche di ricordarvelo a fine trasmissione, il prossimo mercoledì non andremo in onda, Slick Chick si prende una pausa vacanziera di una settimana, allora vi dico anche un appuntamento della prossima settimana, che non è un appuntamento fiorentino, è un appuntamento nazionale, ed è l'Hack Meeting 2017, dal 15 al 18 giugno, quindi da giovedì a domenica, in Val di Susa quest'anno. Vabbè, sì, dalle parti di Torino, ma non serve che vi spiego dove è la Val di Susa. L'Hack Meeting, vi leggo, è l'incontro annuale delle controculture digitali italiane, di quelle comunità che si pongono in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all'interno delle nostre società, ma non solo, molto di più. Lo sussurriamo nel tuo orecchio e soltanto nel tuo, non devi dirlo a nessuno. La KIT è solo per veri hackers, ovvero per chi vuole gestirsi la vita come preferisce e sa sbattersi per farlo, anche se non ha mai visto un computer in vita sua. 3 giorni di seminari, giochi, feste, dibattiti, scambi di idee, apprendimenti collettivo per analizzare insieme le tecnologie che utilizziamo quotidianamente, come cambiano e che stravolgimenti inducono sulle nostre vite reali e virtuali, quale ruolo possiamo rivestire nell'indirizzare questo cambiamento per liberarlo dal controllo di chi vuole monopolizzarne lo sviluppo, sgretolando i tessuti sociali e relegandoci in spazi virtuali sempre più stretti. L'evento è totalmente autogestito, non ci sono organizzatori e fruitori, ma solo partecipanti. Vi invito, se siete interessati, a dare un'occhiata al sito, che è acmeeting.org, vi do questo, /akit17, l'edizione di quest'anno, facile, dove trovate un po' tutte le info, il programma, come arrivare, i contatti vari, la storia che vi racconta di che cos'è questa comunità poi di fatto e quant'altro. Direi basta con gli appuntamenti, ve ne ho detti anche troppo e mi si secca la gola. Proseguiamo con i Jam con un brano che si intitola The Eton Rifles. L'album è Setting Songs del 1979 e parla di un corteo di disoccupati che protestava per il diritto al lavoro. A un certo punto un aneddoto sul giornale racconta ai Jam, che poi ne fanno un pezzo, a un certo punto il corteo passa di fronte al prestigioso Eton College, la fucina dell'elite britannica, diciamo, i cui cadetti tra l'altro appunto si chiamano Eton Rifles e ovviamente iniziano tafferugli. Buffo che Cameron, lui, il leader dei conservatori britannici, dichiarò in un'intervista che era uno dei suoi pezzi preferiti. Che vi devo dire? Effettivamente i politici sono gente molto strana. Danke. Questi erano gli Angelic Upstarts con Kids on the Streets. Beh, lo ripetiamo in continuazione, quindi l'avrete capito. L'album era 2 Million Voices del 1981. Ci spostiamo un po' dall'Inghilterra, che in effetti avevamo un po' solcato in maniera ossessiva, bene, anche troppo, perché non abbiamo parlato troppo dei riot inglesi, ce ne sarebbe da dire. Ma ci spostiamo, restando in Europa e arrivando in Francia. In Francia, allora, con The De Cabal, che è uno dei fondatori dei Cabal, che è un storico gruppo francese che girava in tour con Assassin, che forse conoscerete, è un'altra pietra fondante dell'hip hop francese. Il rap, beh, l'hip hop francese nella sua interezza è dominato dalla rabbia e dalla frustrazione che suscita la quotidiana vita in banlieue. I testi di tutti, da quelli dello stile hardcore, ovvero quello più crudo e grezzo, meno di testa e più di pancia, ma anche di quello politico, capace di uscire ogni tanto dal ghetto e dare un nome più preciso alle cose, diciamo più consapevoli di chi sono i colpevoli e del perché. Insomma, praticamente tutti i testi raccontano delle bavure, ovvero le continue angherie subite dalla polizia, i pestaggi, gli omicidi impuniti che si susseguono, numerosissimi, le torture, le continue provocazioni, il razzismo. Chi è stato almeno una volta in banlieue sa quanta separazione ci sia con il resto della città e può forse appena cogliere quello strano senso di odio mischiato alla volontà di appartenenza, che è una cosa strana, tipicamente parigina, tipicamente delle banlieue. Questo appunto è Deux de Cabal con Orage, l'album è Les Soliloques du Chaos del 2015. Membres brisés et nos vertiges. Un fracas épouvantable juste au-dessus de nos têtes. Un tonnerre sourd comme si nos tympans avaient pris perpète. Le sentiment que les sacs de viande sont lâchés des airs. Ce sont des corps sans vie qu'ils jettent de leurs hélicoptères. On s'est en trouble, il ne faut pas être révolutionnaire. La milice rôde et les faces du moindre apprenti incendiaire. Les chaînes de télé avaient pourtant pris soin de nous avertir. Ceux qui ne rentrent pas dans les rangs essuieraient les tirs. Croisés, groupés, concentrés, nourris et meurtriers, groupés, concentrés. Ne pleure pas petit, dis-moi donc qui t'avait menti. Tu croyais accéder à l'éternité en venant ici. Qu'est-ce que tu croyais? Tu te voyais, on t'évoquait, produisant des écrits que tout le monde lirait. La mort est là, mais moi je ris quand même. Encore un bleu qui pensait que l'hiver pouvait être saine. Il pleut si fort, il pleut de rage. La pluie dévore, même les plus sages. Nos idées s'ouvrent, précarisées. Et nos hantises, aux gangrénées. Il pleut la mort, il pleut la rage. Il pleure des corps, grand de l'orage. Les guerriers gisent, membres brisés. Et nos vertiges nous ont armés. Nous avons été trompés depuis le tout premier jour. Quand on nous a fait croire que l'ennemi avait dérobé l'amour. Alors nous sommes venus de partout, enroulés à tour de bras. Engager nos propres vies dans la défense de l'élémentaire 3. Trompés par nos chefs, abusés par la presse. Nous sommes rapidement devenus de sanguinaires mercenaires. Coincés dans une bande de lutte d'urgence, nous étions affamés et coléreux. On s'est dirigés comme un seul homme, mais comme un seul homme dangereux. Vers les réserves mondiales, nous avons dynamité les piliers de nos fables. Éparpillé la foi, l'honneur démembré, la dignité gommée. Orphelins de guerre, sans père ni mère, sans idée à défendre. Fendre, vivre dans un monde de peste et comme nous pendre. Plutôt crever que de se faire prendre, vendre ou fendre. Ce n'est pas la guerre de droit, pas l'éternité ici. S'ils nous ont volés, je les tuerai jusqu'au dernier. Maintenant que cela est dit. Il pleut si fort, il pleut de rage. La pluie dévore, même les plus sages. Nos idées s'ouvrent, précarisées. Et nos hantises, aux gangrénées. Il pleut la mort, il pleut la rage. Il pleure des corps, grand de l'orage. Les guerriers gisent. brise, membres brisés, yeah. Et nos vertiges, yes, nous ont armés. Je fus en premier lieu saisi par le souffle chaud du sang des autres qui coulait à flot. J'ai rempli mes naseaux, inspiré jusqu'au vertige. Puis j'ai vomi nos souvenirs résidus de nos vestiges. Nous étions mort-nés, encastrés dans des certitudes usées. Nous étions armés sans aucune formation. Nous nous sommes formés en mortuaire escadron. Nous avons dénombré nos premières victimes, rendu compte de la différence entre guerre et crime. Les explosifs artisanaux n'ont pas de face ni de regard. Ils frappent à l'aveugle, quelle que soit la couleur de l'étendard. J'ai moi-même mis en terre des soldats plus jeunes que mon fils, sans savoir quel corps ils servaient, sans avoir le moindre indice. Une bataille sans uniforme est une bataille sale. Je suis un enfant de la guerre sale, je suis l'enfant qui a mal. Le trop fort et c'est une pluie de rage. La pluie dévore tout, tout même les plus sages. Nos idées souffrent, meurent précarisées. Et nos hantises ont gangréné. Il pleut trop fort et c'est une pluie de rage. La pluie dévore tout, tout même les plus sages. Nos idées souffrent, meurent précarisées. Et nos hantises ont gangréné. Il pleut si fort, il pleut de rage. La pluie dévore même les plus sages. Nos idées souffrent, précarisées. Et nos hantises ont gangréné. Il pleut la mort, il pleut la rage, il pleure des corps, contre l'orage. Les guerriers gisent, membres brisés, et nos vertiges nous ont armés. Freedom, there ain't no fucking freedom! I'm a punk and all I said, I got naked on the rose ahead. I'm a fool and blasphemous too, for all I know I'll be in the back with you in a police car. Questi erano i Cockney Rejects con Police Car. Mi ero dimenticata di dire prima, parlando di Dede Cabal e la sua orage e le banlieue e tutto quanto, che c'è un libro che ad oggi secondo me è veramente l'unico, almeno di quelli che ho letto io, l'unico adatto a raccontare i moti nelle banlieue, in particolare quelli del 2005, ma poi vabbè, in generale le banlieue, tutto quel clima, cosa succede là, cosa è successo e cosa succederà peraltro. E, purtroppo non è mai stato tradotto in italiano, ma esiste in francese, ma anche un bel malloppone. Se sapete un po' il francese, mi sento di consigliarvelo veramente molto perché è illuminante. Si intitola La France Peur, une histoire sociale de l'insicurité, ovvero una storia sociale dell'insicurezza, scritto da Laurent Bonnelli per Edizioni La Découverte. E, è stato fatto nel 2008, scritto nel 2008, quindi poco tempo dopo, poco, 3 anni dopo le rivolte nelle banlieue del 2005, e è un malloppone diverse centinaia di pagine perché parte dall'inizio a spiegare come si sono costituiti questi quartieri, come si sono evoluti, come sono stati a tavolino pensati, e perché di fatto la Francia non si doveva stupire per quello che stava succedendo. Tra l'altro, insomma, tutto ciò facendo le dovute misure, ovviamente le dovute differenze, però non è tanto lontano da certi quartieri italiani, da quel che sta succedendo, che è successo anche da noi. Ma abbandoniamo per un attimo la Francia, ci ritorneremo dopo, d'altronde l'avevamo già fatto con i Cockney Reject, e ci allontaniamo non di tanto perché arriviamo in Irlanda, purtroppo il nord Irlanda, nel senso che l'Irlanda sì, ma non liberata a tutt'oggi, con gli Stiff Little Fingers, l'album Inflammable Material del 1979, e il pezzo che è Alternative Ulster non parla veramente direttamente dei Riot, ma gli Stiff Little Fingers, avendo vissuto gli anni 70 e 80 a Belfast, direi che si possono citare anche così a caso, anche solo per diritto di appartenenza alla classe dei Rioters. Alternative Ulster parla in realtà di quella che è la scena giovanile nordirlandese stremata da Riot e la guerra in corso. In realtà questa scena vorrebbe creare un qualcosa sotto i sacchi di sabbia, vorrebbe provare a ricominciare a vivere. Guarda un po' dove vivi, dice, ci sono i soldati britannici nelle strade, quelli della polizia nordirlandese, cani della repressione che ti stanno alle calcagna. È questa la vita che dobbiamo vivere. Ciò di cui abbiamo bisogno è un Ulster alternativo, ovviamente nell'accezione inglese, non quella in italiano, che purtroppo suona sempre un po' male. Radio Wombat, siamo quasi alla fine di questa puntata un po' tremante ma sentita. E ritorniamo subito, come vi avevo anche un po' detto, in Francia, perché vi faccio sentire un altro pezzo hip hop francese, ma questa volta molto più recente. Beh, no, anche l'altro era recente in realtà, ma recente proprio il gruppo. Si tratta dei Sang Mêlé, Les Balles des Insurgés. E l'hip hop nuova scuola, i Sang Mêlé appartengono brutalmente all'hip hop politico, soprattutto appartengono alla scena antifa europea e alla Sharp. Probabilmente non è la cosa più precisa da ascoltare se ci si vuole fare una vera idea di cosa sia la scena di periferia, quello che viene chiamato appunto il rapper core, ma secondo me musicalmente sono molto belli, e nella Francia di questi anni l'ostinazione con cui portano avanti la loro idea è sicuramente ammirabile. On danse sur les pavés avant qu'ils se mettent à voler, danziamo sui sempietrini prima che si mettano a volare. J'entame une valse avec le bitume, par coutume, par habitude. Révolté par le réel, par les pensées, les attitudes. Enclin à la lassitude, j'ai préféré le combat. Faut se révéler, se répéter, référer les coups bas. Faut se réveiller avant que la seule issue soit sous les décombres. Les gorges au champ, le sol viendront annoncer le décompte. On se décompose petit à petit par la tête. Sors pas le costume de soirée car le temps n'est pas à la fête. C'est le prix, le poids de la paresse, non plutôt celui de l'égoïsme. Là-bas des enfants soldats, ici ce sont des choristes. Que Dieu vienne et puis me corrige. Perso, j'ai jamais croisé ni clé. Les croisades, les croisières, les croix celtiques, les croix de fer. Et je crois que c'est la tolérance qui nous attire vers le vide. Je vais mettre un pied devant l'autre, mais la télé me fait perdre le rythme. On ne veut pas de terre de riche, ici on prône le partage. Mais ça reste utopique quand des cailloux affrontent des calaches. On danse sur les pavés, avant qu'ils se mettent à voler, braver. Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser de questions, sans se poser aux raisons qui nous livrent, vu qu'on se comprend sans se causer. C'est un appel aux indignés, on peine à oublier les résistants de tout temps, ceux qui n'ont jamais plié. On y est, 2015, on est laissé la Crimée. Libérez vous criez, c'est le bal des insurgés. Rentre dans la danse, je t'arrête de suite, on fait pas de pénitence, sans plus de conscience. En état de fuite face aux circonstances, on crache sur vos valeurs et lâche les casseurs. Sur leur système oppressé, mené par des valeurs, je maudis tous leurs chiens en képi qui prennent les miens à partie. Je rêve de temps, je mène et je vois les poulets rôtir. Foi ni loin emmène notre guerre contre leur super jour, leur crise insiste et toute leur stratégie qu'ils banalisent. Esprit vandale, ramène ton pochoir qu'on baisse. Le mieux à la rue nous appartient, aucune censure dans nos peintures. Frères d'infortune, on traîne en bande jusqu'au bleu azur. École de la propagande, sort toute leur devanture. Révolte de quartier aux prolétaires émigrés. On jette le premier pavé, embrassé par les préjugés. Pas vrai, tout à l'heure est clinique et le système tout à l'heure est de brûler. Ce qu'ils s'aiment tous pareil, bienvenue au bal des insurgés. On danse sur les pavés avant qu'ils se mettent à voler, braver les interdits. C'est nécessaire, on le fera sans se poser de questions, sans se poser aux raisons qui nous livrent, vu qu'on se comprend sans se causer. C'est un appel aux indignés, on peine à oublier les résistants de tout temps, ceux qui n'ont jamais plié. On y est, 2015, on est laissé la Crimée. Libérez vous criez, c'est le bal des insurgés. Questi erano i Sang Mêlé e con questo pezzo ci salutiamo, anzi in realtà ci salutiamo con un ultimo pezzo prima di lasciarvi andare a dormire o a fare quello che volete fare, con i business in particolare. Ci salutiamo giusto per riprenderci un attimo e vi ricordo che la prossima settimana appunto Slick Chick Zompa. Ci risentiamo da questi stessi microfoni mercoledì 21 giugno. E boh, chissà, è anche un solstizio, boh, no, equinozio, come non l'ho mai imparata questa cosa, vabbè, chiederò a Google. Comunque ci risentiamo appunto tra un po' e vi ricordo gli appuntamenti. Essenzialmente il primo quello di domani alle 5 in Piazza San Marco, e poi a seguire anche un po' di concerti sabato, e poi per chi vuole salire all'Hack Meeting ci troverete anche fra l'altro con il Wombat in Valsusa all'Hack Meeting, tra l'altro con un banchino, ma anche a parlare un po' di radio via web, strumenti di radio non via web, radio M e varie altre cosette. Quindi se vi va prendete i vostri coccini e salite a trovarci. Ci salutiamo appunto con i Business, Work or Riot, dall'album Suburban Rebels del 1983, e basta, non alla prossima, a tra 2 settimane. Ciao ciao.